Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va? E ben ritrovati tutti voi che ascoltate la nostra trasmissione Fumetti a Sinistra, da anni ormai in onda su Radio Città Fujiko, ma per quelli che sono i nostri nuovi ascoltatori, come sempre alla riapertura della stagione, facciamo una presentazione del CRAP, la facciamo, di questo Comitato Ricerche Associazione Pionieri, in modo un po' strambo, con un'intervista tutta particolare al nostro presidente Carlo Zaia. E per questa intervista abbiamo riesumato un'antica trasmissione del 2018, un po' all'alba della nascita del CRAP. Molte le polemiche dopo la clamorosa evasione da Alcatraz di Carlo Zaia, capo della banda del CRAP. Per raccontare la vera storia di questa fuga, anche per smentire voci, fake news e leggende metropolitane sorte all'indomani dell'evasione del bandito, possiamo sentire la registrazione dell'ultimo interrogatorio del fuorilegge. Ringraziamo il Federal Bureau Comics Investigation per il nastro registrato il giorno 31 febbraio 2018 nella sala interrogatori di massima sicurezza di Alcatraz. Ok, ore 16 di domenica, Detective Fred Pasquale, agente della Federal Bureau Comic Investigation Bologna Department, comincia l'interrogatorio di Zaia Carlo. Bene, Mr. Zaia, finalmente è caduto nella rete. Facciamo una cosa, mi dica tutto quello che sa sul CRAP e poi tutti ce ne andiamo a casa a farci una bella birra fresca. Chi siete? Mi avete preso a parco senza dirmi nulla, mi avete portato in questi locali senza dirmi nulla. Io voglio sapere chi siete, non dico altro. Il CRAP. Io non so che cos'è il CRAP. Poi ho tanto tempo a disposizione, invece di passare la giornata sulle panchine del parco, ne passo qui con voi. Però non conosco nessun CRAP. Guarda che non ho tempo da perdere, perché ho solo la mezz'ora della trasmissione, quindi sputa il rospo. Mi parla del Comitato Romano dell'Acqua Pubblica? Non mi sembra che c'entra qualcosa nella mia storia. Io non conosco altri CRAP. Vedete voi di farmeli presente, ma non li conosco. Questa volta non la fai, Frank. Abbiamo il tuo DNA sul Pioniere, intercettazioni telefoniche ed anche Cipollino ha parlato. Non so di che cosa sta parlando, fatemi venire l'avvocato che così chiariremo tutti insieme, ma io non conosco il CRAP. Come vuoi, già hai perquisito il tuo appartamento, abbiamo trovato l'intera raccolta di Tex. Oh guarda, ho proprio qui la mano rossa, primo numero con Lilith, Aquila della Notte, in Avaos. E allora, cos'è il CRAP? Cosa vuol fare? In quanti siete? Ancora. Ma io il CRAP non lo conosco e sono solamente un onesto pensionato che va a passare le sue giornate al parco a leggere il giornale. Ma guarda, guarda, guarda, Tex contro Mefisto. Ma che state facendo? I Tex, la raccolta di Tex sono la mia vita, la mia storia, 30 anni di ricerca, di storia di un giornaletto. Io amo Tex, non potete fare queste cose. Ho diritto anche a una telefonata, state fermi per l'amor del cielo. No, fermi. Se parlo, che cosa ci guadagno? Avete vinto voi, mi avete proprio rovinato. Dipende da quello che mi dirai, potrei parlare col procuratore e farti avere uno sconto di pena. Adesso però mi dici, allora, cos'è il CRAP? Cosa vuol fare e in quanti siete? Va bene, il CRAP è un comitato di ricerca, associazioni e pionieri, è un'associazione fondamentalmente nata nel 2017 e ha un comitato di gestione per la ricerca che si trova in molte zone d'Italia e in ogni realtà ha un proprio referente. Io non capisco. Perché riesumare un vecchio giornalino a fumetti comunista fatto da partigiani quando tutti lo hanno dimenticato? Voi archeologi di sinistra, cosa avete in mente? Ma voi birri, non riuscirete mai a capire quello che stiamo facendo, non è alla vostra portata. Provaci lo stesso se ci tieni al numero 125 di Tex dove Will incontra il pugile irlandese Pat McCrayan. Sarebbe un gran peccato stracciarlo. Va bene. Il CRAP sta cercando di recuperare la memoria storica del progetto educativo dell'Associazione Pionieri d'Italia e dell'Associazione Falchi Rossi Italiani che si sviluppò negli anni 50 e 60, ma anche sta cercando di rifare il recupero storico dei giornali dei ragazzi usciti dal 1946 al 70, un passato di fumetti a sinistra che purtroppo erano andati persi oppure non più rintracciabili in maniera molto facile. Questo è il lavoro che sta cercando di fare il CRAP e che sta portando avanti ormai da un po' di tempo. Sentimenti nobili, Mr. Zayam, ma cosa ci faceva armato di scanner nelle case di cittadini onesti, biblioteche comunali, insegne e fondazioni culturali? E chi l'ha detto? Io non sono mai uscito di casa per fare queste cose. Ditemi chi è stato a raccontarvi questa. Strano davvero, abbiamo denunce da diversi archivi storici. Vediamo, vediamo. Fondazione Gramsci Emilia Romagna, Bologna, Gramsci Marche Ancona, Gramsci Roma, Biblioteca Comunale Luciano Benincasa di Ancona ancora, abbiamo l'Archivio Storico Indire di Firenze, l'Istituto Storico della Resistenza in Toscana, ancora a Firenze, la Stella Alpina di Piomba nel Novarese, l'Archivio del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino e, dulcis in fondo, Archivio del Centro Studi Pirogobetti di Torino. Non potete farmi questo. Io se parlo sono un uomo morto. Possiamo proteggere te e la tua famiglia, nuova identità, nuovo lavoro, una casetta sulla Sila e 435 euro lordi mensili per campare. Non mi lasciate nessuna scelta. Tutto il lavoro che abbiamo fatto con il CRAP è stato per la costruzione di un sito internet www.ilpioniere.org. In questo sito è stato messo dentro tutto il materiale trovato in questi anni. Tutta la produzione dei giornali dal 1946 al 1970, che comprendono il Pioniere per l'intera sua produzione e il Pattuglia per l'intera sua produzione. Abbiamo scannerizzato circa 18.000 pagine e questo è un lavoro enorme. Abbiamo ancora delle mancanze, nel senso che i giornali tipo il Moschettiere, il Falco Rosso e i ragazzi non si trovano facilmente e stiamo ricercando per completare tutta la serie. È un lavorone. Ma oltre questo, abbiamo cercato di recuperare tutti i documenti delle due associazioni, l'Associazione Pionieri d'Italia e l'Associazione Falchi Rossi Italiani, associazioni che erano nel mondo giovanile, del progetto che veniva portato dal 1946. È un progetto della sinistra. Pertanto è un progetto dimenticato completamente. Stiamo ricercando questi documenti, li stiamo scannerizzando anche loro. E qui fino ad oggi abbiamo trovato circa 1500 pagine di documenti di quel periodo. È un lavorone, probabilmente è l'unico lavoro che esiste in Italia su questo tema. Noi stiamo lavorando per cercare di incrementare tutto questo progetto, specialmente il recupero dei giornali che ci mancano e il recupero anche dei documenti più possibili che ci mancano. Ora che vi ho detto tutto, mi potrete anche lasciare in pace. Sono stanco, stanco perché ricordare tutta questa storia è enorme di lavoro che noi abbiamo fatto, è un'impresa. Carlo Zaia, sei tu il segretario del CRAP? Sì, sono io il segretario del CRAP, segretario dal 2017 e c'è anche un direttivo, però non vi darò mai i nomi chi sono. Ancora una cosa, bello mio, quanti colpi avete in programma? Stanco, ma vi voglio dire l'ultime due o tre cose. In questi anni abbiamo organizzato una serie di convegni dove si è parlato del progetto dell'Associazione Pionieri d'Italia, del Pioniere, del Falco Rosso, e questi incontri li abbiamo fatti a Bologna, due, a Pesaro, a Lugo di Romagna nel 2017 per quanto riguarda nel 2018 stiamo per concludere o abbiamo già organizzato un incontro molto interessante a Roma con l'UDI, dove si parlerà del contributo anche dell'UDI che ha dato alla costruzione e alla nascita dell'Associazione Pionieri d'Italia, perché è dal 1949 che aiutava quell'associazione. Più abbiamo organizzato degli incontri a Reggio Emilia, a Montemarano, a Cantiano e probabilmente nella Casa della Resistenza in provincia di Verbania. Pertanto ormai ci stiamo allargando in tutta Italia. Ci sono state fatte delle richieste, ma ancora da discutere, a Firenze e a Milano e Torino. Queste sono le attività che noi stiamo portando avanti in questo periodo. Per oggi può bastare. Ore 16.30, fine dell'interrogatorio con Daia Carlo sul caso Crap, alla ricerca del pioniere scomparso. Ma cosa? No, fermati. Dove l'hai trovata? Abbassa quella pistola, non sparare! Ebbene sì, maledetto Carter, hai vinto anche stavolta! Fred cade colpito da quattro colpi, mentre Zaia, facendosi scudo con un secondino, fugge dal carcere e ritrova la libertà in una nuvoletta. La storia non si ingabbia. In memoria dell'agente federale Fred Pasqual. Questa intervista con Carlo Zaia, presidente del CRAP, dicevo un'intervista che risale al 2018, naturalmente le cose sono molto progredite, il CRAP è cresciuto e quindi non solo il sito online, non solo conferenze, ma anche mostre, fumetti e un'intensa attività anche quest'ultima estate quando era vacante la trasmissione. Allora la vicepresidente del CRAP, Morena Moretti, ci ricorda brevemente le tante iniziative che sono succedute sotto il sole di luglio ed agosto e settembre. Morena Moretti, che non solo fa parte della nostra redazione, della trasmissione, ma anche vicepresidente del CRAP, riassumiamo le tante iniziative fatte dal CRAP oppure a cui il CRAP ha partecipato, cominciando con il mese di luglio. Sì, è stata un'estate molto ricca e molto impegnata. Ricordiamo le iniziative, una a Pesaro il 9 luglio, abbiamo fatto la presentazione del libro Chi ha ucciso Cipollino, che è stato rieditato, non solo perché era esaurito, ma anche perché è stato sicuramente anche migliorato, una presentazione fatta con Alfredo Pasquari, che è l'autore, e anche con la presenza del nostro del presidente Carlo Zaia. Ma le iniziative si spostano in tutta Italia, andando anche nel profondo sud. A Spezzano della Sina, infatti, siamo in Calabria ovviamente, abbiamo portato la mostra Pinocchio, il burattino senza età, quindi sono le 30 tavole del Pinocchio uscito sul Pioniere, di Rodari come autore e di Verdini come disegnatore, e questa mostra si è svolta fino al 28 di settembre. La presentazione della mostra c'è stata il sabato 13 con il saluto del sindaco e poi con la presentazione di Salvatore Monaco, che ha la delega alla cultura del comune, Katia Cinanni per il CRAP e Roberto Sottile per l'archivio Vinicio Berti, perché ricordiamo che questa mostra naturalmente è corredata da 60 splendide litografie appunto di Vinicio Berti, che è stata una colonna portante, un grande collaboratore del giornalino Il Pioniere. E quindi passiamo al CRAP nella veste di produzione di fumetti, con una comparsata a Forte Prenestino a Roma. Sì, e lì sono andati ragazze, ragazzi e i partecipanti al workshop che si è svolto per la realizzazione del nostro fumetto Volando Basso. E il festival a Forte Prenestino è dedicato all'editoria indipendente, e lì per 3 giorni abbiamo anche mantenuto una posizione con un banchetto, abbiamo avuto modo di parlare e confrontarci con tante altre realtà dell'editoria dal basso e di quello che è il lavoro collettivo per costruire relazioni, per costruire in questo caso, per quello che ci riguarda, anche un fumetto che è una storia importantissima di un quartiere di Bologna che è la Pescarola. Del fumetto ancora si è parlato invece a nord, in provincia di Novara, Pombia, all'interno della Festa Resistente, organizzata da Stella Alpina e tanti altri insieme anche al CRAP, e dove appunto abbiamo detto la nostra. 14-15 settembre, la Resistenza in Festa. Festival. Per loro è già la 16ª edizione. Vi ricordo che Stella Alpina è una nostra associazione sorella, anche la mostra di Pinocchio è stata realizzata insieme a loro con la loro collaborazione, quindi con questa associazione il CRAP collabora da moltissimi anni. Abbiamo presentato domenica 14 il fumetto Volando Basso, ma voglio anche ricordarvi che anche il sabato, dal sabato precedente, era possibile visitare una mostra con le tavole scelte del fumetto appunto Volando Basso, ma anche con altre mostre di tavole, di graphic novel che riguardano la resistenza, le resistenze anzi di ieri e di oggi. E curate queste mostre da Bruno Testa, che ha presentato il progetto, il graphic novel, per raccontare le resistenze. E dopo Volando Basso, quest'estate è andata a compimento anche un altro lavoro collettivo di fumetti, in relazione ai 50 anni di vita di Radio Città Fujiko. Quindi abbiamo organizzato un altro workshop come CRAP in collaborazione con la radio, proprio in occasione dei 50 anni, un workshop sempre fatto con le stesse modalità dell'altro, quello cioè per il fumetto Volando Basso, quindi con un gruppo di lavoro di donne e uomini che hanno lavorato in collettivo con un grandissimo impegno, tra l'altro un fumetto fatto in tempi davvero molto, molto rapidi, e con degli episodi significativi ed emblematici che hanno contrassegnato questi 50 anni di storia della nostra emittente. Fin qui le iniziative promosse proprio dal CRAP, però il RIART, questa chiamata alle arti di artiste ed artisti in favore della pace contro il riarmo, Radio Città Fujiko l'ha promossa chiamando a sé tutti i lavori creativi di chi voleva contribuire a questa causa, e il CRAP in qualche modo ci ha messo fattivamente il suo zampino. Anche queste cose sono svolte quest'estate. Abbiamo iniziato partecipando con questa mostra a 2 spettacoli dell'associazione Yucali e la Madre di Senò, che si sono svolti alla Certosa di Bologna. Lì appunto abbiamo esposto le tavole, abbiamo riscontrato davvero un grandissimo interesse. E poi successivamente, subito dopo, siamo andati ai 300 scalini, sempre con la radio e sempre con le nostre tavole, dove c'è stato anche uno spettacolo teatrale fatto ad hoc per la serata. Donatella Allegro ha recitato e cantato un articolo di Jeannot rispetto alla Prima Guerra Mondiale, alla tragedia, quel gran massacro, della serie Disertare. E poi 2 mostre, uniti a Andala, che si sono svolte prima a Bologna e poi a Ravenna. Questo in omaggio alla causa palestinese. Naturalmente. L'iniziativa, quella del Uniti Andala, è partita dall'edicola Linus del Pratello con l'inaugurazione della mostra sul bambino, appunto, Andala, e si è conclusa domenica 6 al Centro Sociale della Pace, Voci e Parole contro la Guerra, un'iniziativa a cui hanno collaborato, oltre la radio, al CRAPA, anche l'edicola Linus, appunto, il Centro Sociale per la Pace del Pratello, Pratello Resiste, e l'associazione Victor Serge, che ha curato proprio questo reading di poesia e musica, con il particolare impegno di Stefania Sau. E questa mostra Unita ad Andala è stata esposta anche a Ravenna in un noto pub della Darsena, e ha riproposto appunto il dramma dei bambini palestinesi secondo il gran disegnatore Nasheed Ali. E per finire invece abbiamo la presenza del CRAP e della Radio da Fujiko anche all'interno dell'uscitissima iniziativa San Donato, con lo spazio delle tavole, anche qui esposte le stesse tavole presenti infine nella festa Le Parole di Pace, Le Parole e l'Azione di Pace a Calderina Monte San Pietro. Direi che è un'estate molto intensa, che prelude anche mesi autunnali altrettanto densi. Sì, infatti ci sono in programma diverse iniziative che ve ne daremo conto col tempo, man mano che ascolterete le nostre trasmissioni, vi daremo conto delle iniziative che faremo, che abbiamo in programma, e saranno veramente tante, per cui il CRAP continua alacremente a lavorare dopo un periodo molto breve di riposo, ma questa poi in definitiva è la nostra anche passione. Comunque l'attività riprenderà ben presto, perché già il 5 ottobre alla mattina, alla domenica in piazza a Bazzano, il CRAP Radio Città Fujiko sarà un protagonista nel presentare l'ultimo fumetto che il workshop di giovani aspiranti fumettisti ha prodotto per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Presentazione che poi tornerà anche in primis a Bologna l'8 ottobre alle 20:30 presso il Centro della Pace di Via del Pratello. E poi, per chi volesse essere aggiornato sulle iniziative dintorni, si può aderire alla nostra newsletter del CRAP all'indirizzo email paola.barbieri@gmail.com. E cade la pioggia e cambia ogni cosa. Morte e la vita non cambiano mai. L'inverno è tornato, l'estate è finita. La morte e la vita rimangono uguali. La morte e la vita rimangono uguali. Per fare un uomo ci vogliono 20 anni. E verrà il tempo di dire parole, quando la vita, una vita verrà. E verrà il tempo di fare l'amore, quando l'inverno, io no, se ne andrà. Quando l'inverno, io no, se ne andrà. Poi andremo via, come fanno gli uccelli. E dove vanno nessuno lo sa, ma verrà un tempo e quel cielo vedremo, quando l'inverno dal nord tornerà, quando l'inverno dal nord tornerà. E cade la pioggia e cambia ogni cosa. La morte e la vita non cambiano mai.